Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata, buon inizio settimana a tutti, eccoci di ritorno dal lungo weekend per chi lo ha fatto, cominciamo la settimana un po' a fatica, tutti comprensibilmente colpiti da quello che è successo ieri davanti a Palazzo Chigi, lo stato di disagio di molte famiglie lo testimoniano ogni giorno anche nella nostra trasmissione, c'è, è forte e noi cerchiamo appunto anche di dar voce a queste famiglie come sapete bene e cerchiamo di dare anche loro, affrontando i temi che conoscete nel nostro programma, qualche aiuto pratico per affrontare anche tutte le novità che costantemente arrivano, tutte quelle che sono arrivate a volte anche pesanti negli ultimi mesi. Oggi con un occhio alle vicende romane torniamo ai nostri argomenti consueti perché comunque la vita va avanti con le questioni di tutti i giorni. Oggi torniamo a parlare di un tema che per noi è tra virgolette per così dire stagionale e che interessa più o meno tutti perché praticamente quasi tutti guidiamo. Visto che oggi piove in molte città italiane, a Milano diluvia da questa mattina, la pioggia primaverile è uno degli elementi atmosferici da non sottovalutare nell'organizzare con attenzione la manutenzione della nostra automobile in vista dell'arrivo della stagione estiva. In primo luogo il cambio di pneumatici importante per chi aveva montato le gomme invernali è però solo il primo di una serie di accorgimenti che garantiscono sicurezza ed efficienza in vista del periodo delle vacanze. Dai tergicristalli alla batteria, dalle cinture di sicurezza al serbatoio dell'olio, Salva Danaio oggi fa il punto dei controlli necessari e dei costi che questi possono richiedere, con il rischio che molte famiglie, alle prese con ben altre preoccupazioni e priorità, finiscano per trascurare gli aspetti più essenziali della cura della propria vettura. E allora per interagire con noi su questo argomento chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, andate su Facebook, ci trovate anche lì al profilo salvadanaio_radio24, su Twitter @salvadanaio24. Avete già provveduto a sostituire le gomme invernali, vi ricordate di fare un check up alla vostra auto in vista della bella stagione? Con chi parleremo di tutto questo stamattina? Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, che torna con noi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti e benvenuto ad Andrea Marinucci, CNA Autoriparazione Roma. Buongiorno Marinucci, anche a lei, il nostro esperto. Buongiorno. Della situazione. Buongiorno. Non perché Bertolotti non lo sia naturalmente, ma è un nuovo ospite, quindi lo salutiamo ancora più volentieri. Allora, tutti i termini per interagire con noi ve li ho dati, adesso invece andiamo un po' a vedere cosa succede oggi in borsa. Prima di tutto rispondiamo all'ascoltatore che ci chiede: ma perché stamattina non avete dato Tokyo? Tokyo è chiusa per festività e abbiamo ancora la chiusura di venerdì scorso, -0,30%. Le borse asiatiche, le altre benino, Hang Seng di Hong Kong, vedo davanti a me in questo momento, +0,15%. Le borse europee sono tutte positive, adesso un pochino sottotono rispetto ad un'apertura che era stata ancora più brillante. Parigi ha un rialzo dello 0,59%, Francoforte +0,25%, Londra è sulla parità, Madrid guadagna circa un punto, Milano +1,28%, Milano è arrivata a guadagnare anche oltre un punto e mezzo. Cosa succede a Milano? Che c'è un sospiro di sollievo chiaramente per la formazione del nuovo governo, il giuramento prestato ieri da tutti i 21 ministri, speriamo che da questo stallo politico concluso ieri adesso emerga qualcosa di nuovo e positivo per il paese. Lo spread fra BTP e Bund era sceso a 275 basi e questa mattina aveva rappresentato subito un buon auspicio per l'asta dei titoli di Stato che il Tesoro appunto metteva sul mercato. 6 miliardi di BTP a 5-10 anni, per il BTP a 10 anni abbiamo toccato un rendimento del 3,94%, un livello sotto il 4% che non si vedeva dall'ottobre del 2010. E tutto questo peraltro a dispetto di quanto Moody's aveva detto questa mattina, la situazione del paese italiano, del paese appunto, rimane ancora difficile, aveva detto l'agenzia di rating, però verificheremo la capacità del nuovo governo di perseguire le riforme e non è ancora possibile escludere questi uccellacci del malaugurio. Mercurio la possibilità che l'Italia possa chiedere aiuto alla Banca Centrale Europea. In futuro, Mediaset, il miglior titolo di Milano, più 3,51%, Pirelli più 2,86%, tanto perché parliamo anche di gomme oggi, Mediolanum più 2,85%, Telecom più 2,81%, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,55%, il netto calo, la Popolare di Milano, ha un ribasso del 3,41%. Per la società, per la banca, appunto, abbiamo ricordato già l'assemblea degli azionisti di sabato. I soci hanno bocciato a larghissima maggioranza la proposta di consentire il voto da casa online in occasione delle prossime assemblee, una soluzione che era caldeggiata dai vertici, appunto, dell'istituto di credito, che peraltro ha allo studio anche questo piano di trasformazione in SPA. Exor meno un punto, euro su dollaro a 1,3086. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, il cambio di stagione non del nostro armadio ma della nostra automobile. Anche se l'estate sembra ancora lontana, non si può dire che la primavera 2013 non si stia facendo sentire. La pioggia, che pure è un elemento caratteristico di questo periodo, non fa forse pensare alla bella stagione per come la vorremmo intendere, tirando fuori dall'armadio abiti più leggeri e maniche più corte, ma potrà far riflettere almeno una categoria, quella degli automobilisti, su un cambio di stagione che inizia a diventare necessario. Chi aveva montato pneumatici termici adatti alle intemperie invernali e obbligatori in caso di neve in alternativa al montaggio delle catene, si trova adesso a pensare alla necessità di tornare a quelli estivi. Se le gomme invernali permettono di spostarsi in caso di neve e ghiaccio, riducendo gli spazi di frenata, questi garantiscono una maggiore aderenza in caso di pioggia. E con gli acquazzoni di questi giorni e i temporali estivi, che certo non mancheranno, questo aspetto non è da sottovalutare. Alcuni rimonteranno le gomme dell'anno scorso, per altri potrebbe essere arrivato il momento di cambiarle e di acquistarne di nuove. Bisogna insomma verificarne lo stato di usura e provvedere ad un'eventuale sostituzione. La sicurezza deve essere sempre al primo posto quando si fanno delle scelte per la propria automobile. Ma certo, con i tempi che corrono, anche il prezzo è una voce con cui la maggior parte delle famiglie si ritrova a fare i conti. Per fare l'acquisto giusto bisogna sapersi informare con attenzione e confrontare i costi mettendoli sempre in relazione ai requisiti che, per legge, questi prodotti devono rispettare. Senti come piove, ma non è come piove, senti come viene giù. Eh sì, oggi a Milano ne viene giù tanta, probabilmente peraltro continuerà ancora per diversi giorni. Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, ancora buongiorno. Tra l'altro avete presentato proprio da poche settimane un'iniziativa che riguarda in particolar modo il comprensorio di Milano, le iniziative del progetto pneumatici OK, più sicurezza, meno smog. In cosa consiste questa iniziativa ed è limitata davvero solo al Comune di Milano? Perché non pensate di estenderla anche? Ma è un primo progetto, questo fatto con l'assessore Maran del Comune di Milano. Proprio una novità è quella di effettuare, diciamo, dei controlli gratuiti. Saranno 50 i gommisti che sono disponibili ad offrire un controllo gratuito delle gomme, e ovviamente questo è il momento di, come dicevate anche voi, di ripristinare il treno di gomme estive al posto di quelle invernali, che vanno riposte adeguatamente in zone, in locali adeguati, quindi laddove non ne avessimo a disposizione è bene lasciarli dal rivenditore specialista. Se ha la pazienza naturalmente di tenercele, perché non è mica detto che abbia pure tutto questo posto. Ma direi che vorrei introdurre problemi aggiuntivi, però qualche volta magari si può fare anche un'obiezione. Ma è corretto, perché in passato non c'erano di queste disponibilità, non veniva dato questo servizio. Oggi tutti i rivenditori specialisti, parlo dei gommisti, cioè quelli, certo, che fanno questo di mestiere, offrono questo servizio che ha un costo veramente banale, parliamo di 5-10 euro a gomma, e tra l'altro con una copertura assicurativa, quindi si ha la certezza di avere uno stoccaggio corretto e quindi di ritrovare le nostre gomme in buono stato, o esattamente nello stato in cui le abbiamo lasciate. Sperando che fossero state in ottimo stato, naturalmente. Certo, Bortolotti, sì. Andiamo alla ciccia, perché lei lo sa che è il tema che ci interessa di più. Allora, le famiglie italiane sono alle prese con tanti problemi in questo momento, fanno tanti sacrifici economici per arrivare alla fine del mese, e partendo dal presupposto che tutti quanti vogliono portare i propri bambini in macchina, naturalmente, chiaramente, se stiamo parlando di famiglie numerose, nelle condizioni di totale sicurezza, questo cambio? Saranno del tutto interessati, appunto, le famiglie italiane interessate a farlo, cioè il passaggio dalla gomma invernale a quella estiva? Quanto ci costa questo passaggio? Ma il costo è chiaramente funzionale al tipo di vettura e quindi al tipo di pneumatico che si va a scegliere, quindi possono essere semplicemente 200-250 euro per vetture di piccola cilindrata, parliamo di Punto, parliamo di Panda e così via, di C3 e quant'altro, fino evidentemente a cifre molto più importanti, ma direi che la valutazione del costo è sempre funzionale anche al mezzo stesso. È chiaro che uno non può pensare di avere delle vetture che costano 100.000 euro d'acquisto e poi avere dei pneumatici che costano 50 euro l'uno, perché evidentemente questo non rientra nella logica. Tutti devono pensare che le quattro gomme sono le scarpe della nostra vettura, e come in questo momento, in questo periodo, noi facciamo il cambio di stagione e quindi mettiamo gli abiti invernali al loro posto e ripristiniamo gli abiti estivi, esattamente in questo momento dobbiamo cambiare le scarpe delle nostre vetture, cioè ritornare ai pneumatici estivi non per fare un favore al rivenditore, ma semplicemente innanzitutto per un fatto di sicurezza stradale, perché così facendo avremo una ottimizzazione delle prestazioni e un minor consumo di carburante, e un minor consumo anche dei pneumatici stessi, perché non v'è dubbio, e del carburante, cioè in buona sostanza occorre, come per il vestiario, anche per le scarpe della vettura, fare un ragionamento molto, molto semplice. In estate si utilizzano pneumatici estivi, si ottimizzano tra l'altro le durate di queste gomme, che si consumano più precocemente, ma c'è anche l'aspetto diciamo importante dello spazio di frenata. E attenzione, oggi sentivo la canzone "Oh, guarda come piove", certo che sì, sull'acqua, ma anche sull'asciutto, un pneumatico estivo ha prestazioni migliori rispetto a un pneumatico invernale, proprio perché ha, diciamo, lavoro, è nato e concepito per avere ottime prestazioni quando le temperature sono tipiche della stagione calda. Certo, Bertolotti, senta un po', allora qua a Milano non ho ancora ben capito quando abbia intenzione di smettere di piovere, però probabilmente il cambio delle gomme vorrei farlo nel giro di pochi giorni. Faccio bene o faccio male? Ma lei fa bene assolutamente, perché comunque vada abbiamo delle temperature che non sono più tipiche invernali. Il pneumatico invernale, lo abbiamo detto sempre, ha le sue diciamo, caratteristiche migliori quando le temperature scendono sotto i 7 gradi. Ora, per fortuna non abbiamo più 7 gradi, no, infatti, le temperature. Quindi è la temperatura che devo più che altro tenere in considerazione. È un fatto importante, e poi ovviamente le ordinanze, ormai dal 15 di aprile sono terminati gli obblighi del montaggio di pneumatici invernali, e di conseguenza sono autorizzate eventualmente fare il cambio. Ed è il consiglio, leggevo anche proprio in questi attimi su internet, che anche la stessa polizia stradale sta dando queste indicazioni. Benissimo, andiamo invece alle altre regole di buona condotta da parte nostra per tenere appunto bene l'auto e farla trovare pronta al cambio di stagione. Andrea Marinucci, CNA Autoriparazione Roma, ancora buongiorno. Buongiorno. Se vuole, naturalmente le posso far dire le sue considerazioni sul tema delle gomme, ma per tutto il resto invece l'auto come possiamo farla trovare a posto? Per quello che riguarda appunto l'avvento della nuova stagione, basta sostituire il pneumatico e appunto fare il passaggio da quello invernale a quello estivo? Beh, senza dubbio, se dobbiamo guardare alle tasche dell'utenza, dobbiamo tenere presente che il cambio delle gomme, soprattutto dall'invernale all'estivo, porta sicuramente una minore aderenza sull'asfalto e quindi a un minor consumo. Senza dubbio quello è importante, ma è importante anche un check-up del veicolo per testare la frenata, per testare il cambio dell'olio, per verificare il cambio la viscosità dell'olio. Sono tutte cose che sono importanti e propedeutiche proprio a un minor consumo del carburante, e una migliore efficienza del veicolo. Sento, letto che per esempio ho trovato su internet tutta una serie di vademecum, no? Per come dire, che ci danno tutta una serie di regole che troviamo ovunque, che ci possono dare gli spunti per preparare la nostra auto appunto per l'estate. Ho letto che sarebbe l'ideale far controllare le cinture di sicurezza, per esempio in genere vanno cambiate ogni 60.000 km. Io è la prima volta che leggo un'indicazione di questo tipo, la date anche voi, Marinucci, ai vostri clienti? Beh, senza dubbio la verifica del funzionamento soprattutto degli airbag è necessario, perché molte volte gli airbag sono necessari proprio per proteggere la vita soprattutto di chi ci sta vicino. E quindi una verifica del sistema di funzionamento degli airbag e quindi dei prevenzionatori, delle cinture di sicurezza è essenziale per eventuali danni alla persona e nonché alla vita. Ho trovato un po' esagerato invece il suggerimento montare tergicristalli nuovi ogni primavera, mi sembra un po' troppo frequente questo cambio. Dobbiamo tener presente che il sole secca la calore del sole, la va a modificare la plastica del tergicristallo. È ovvio che se uno vuole che il tergivetro non crei danni o non provochi danni alla disabilità del parabrezza, senza dubbio è necessario un cambio almeno stagionale delle spazio di tergicristallo. E poi comunque, insomma, quando cominciano a non pulire, veramente delle lesioni sul vetro. Ah, creano addirittura delle lesioni sul vetro, in ogni caso comunque se non puliscono bene. È ovvio che poi a questo punto è necessario sostituire il cristallo parabrezza e, diciamo, dato che oggi tutta la maggior parte dei cristalli parabrezza non sono sono montati con delle colle particolari, è chiaro che il costo è estremamente elevato. Benissimo. Allora, sia di manodopera che del ricambio stesso. Allora, qualche indicazione intanto l'abbiamo già data. Nel frattempo io ho aspettato che prendessero il via anche le richieste di intervento da parte dei nostri ascoltatori. Peraltro vi dico che la prima a scriverci un SMS, la prima a telefonarci è stata una donna, la prima è stata Tina a scriverci, e tra l'altro ci scrive e poi le risponderemo quando si ha un dubbio sull'originalità di un prodotto, delle gomme per esempio, a chi bisogna rivolgersi, mentre Sabrina dalla provincia di Modena, le facciamo fare subito la domanda, Gianmarco, che ne pensi? E poi rispondiamo nella seconda parte. Sabrina, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi ospitato. Volevo un chiarimento su i pneumatici che ho montato sulla mia automobile. Ho acquistato presso un noto supermercato i pneumatici, spuntando anche un buon prezzo tutto sommato, perché con lo sconto dell'interno negozio e lo sconto del rivenditore ho risparmiato quasi 100 euro ed ho comprato 4 pneumatici, 4 stagioni praticamente, quattro stagioni, che mi dicono che in questo modo io posso essere in regola sia d'inverno che d'estate. Sì. Ora, ho montato i pneumatici, il gommista che me li ha montati non mi ha detto niente, ha detto che ho fatto un buon affare e tutto quanto. Quando mi sono trovata a parlare con un altro gommista mi ha detto sì, molto belli tutto quanto, hai fatto un affare, ma purtroppo la tua macchina monta un codice H e sul libretto effettivamente c'è scritto, mentre queste sono un codice T e non sei regolamentare rispetto alla portata della velocità, insomma queste cose. Io volevo sapere, c'è chi dice invece che montando il 4 stagioni porta un codice diverso, si può portare questo T invece che questo H. Ma insomma, questa poi soprattutto è una cosa, Sabrina, tecnica, ecco, che ha una certa rilevanza, che è molto importante, soprattutto magari se qualcuno la fermasse in autostrada, se ci fosse un poliziotto, un vigile particolarmente così severo e rigido, che magari va a controllare anche la congruità tra questo codice sul libretto di circolazione e quello delle sue gomme, le dice qualcosa. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Non ci sono solo le gomme da cambiare. Sono tante le attenzioni da riservare alla propria automobile con l'arrivo dell'estate, che spesso porta con sé anche viaggi più lunghi e impegnativi. Per chi ha i soldi. La manutenzione può costare, ma può consentire di evitare spese successive di riparazione o di gestione della vettura. Cambiare un filtro dell'aria usurato, ad esempio, può aiutare a consumare meno carburante. Vista l'intensità dei temporali estivi, un tergicristallo con una vecchia spazzola potrebbe rivelarsi inutile. Sarebbe meglio montarne di nuovi ogni anno. Nei mesi estivi ci sono anche le temperature che si alzano notevolmente e per questo è importante verificare che i fluidi di raffreddamento siano a livelli corretti. È bene cambiare l'olio e verificare lo stato del filtro. E infine, non si sa mai, meglio dare un'occhiata alla ruota di scorta. Altrimenti rimanete a piedi. Eh sì, in questo periodo ci divertiamo un po' anche lasciando i fuori onda dei nostri speaker. Salutiamo con affetto la nostra Alessandra De Luca, che si diverte sempre moltissimo a leggere le nostre schede, anzi nella fattispecie quelle che prepara Marco Lombardo. Noi però torniamo al tema di questa mattina. Fabio Bortolotti di Assogomma allora ci risponde alla richiesta di aiuto della nostra ascoltatrice di Modena, che ha fatto il cambio delle gomme. Sì. E quelle che ha messo, ha acquistato appunto con grande sconto in un centro commerciale, hanno un codice diverso rispetto a quello che sarebbe indicato sul libretto di circolazione. Intanto, che cosa rischia? Innanzitutto va detto che vanno montati solo pneumatici che corrispondono alle caratteristiche indicate in carta di circolazione. Mm. Quindi non è possibile declassare un tipo di pneumatico su una determinata vettura. In altre parole, se quella vettura aveva un codice di velocità H, cioè vuol dire la possibilità di andare fino ad una velocità di 210 km all'ora, ed è questo che è stato omologato dalla casa costruttrice, non si può utilizzare un codice che ha una velocità inferiore, cioè nel caso di specie T, che è 190. Questo vuol dire una infrazione, il prodotto, il pneumatico non è idoneo per quella vettura. Questo nella accezione più ampia. Quando è consentito una riduzione del codice di velocità? Quando si tratta di pneumatici invernali. Invernali, e solo in quella circostanza si può arrivare sino al codice di velocità Q, cioè 160 km all'ora, ma occorre mettere un bollino che identifica questa cosa, quindi buona sostanza. Beh, visto la che però la scaltatrice ha le quattro stagioni praticamente. No, le quattro stagioni sono... Lo so che lei non le ama pizza, moltissimo. Ma non è questione di amarle, è che amo molto la pizza quattro stagioni, ma quattro stagioni è un termine che da un punto di vista tecnico non esiste, nel senso che i funghi a luglio perché quattro stagioni non identifica un prodotto con una caratteristica tecnica specifica. Se quelle gomme che ha montato la signora hanno una scritta M più S sul fianco, magari seguita da un simbolo di tre montagnette con un fiocco di neve, questi sono tutti gli effetti considerati o assimilabili a dei pneumatici invernali. Se non dispongono né dell'una scritta né dell'altra, a questo punto sono delle gomme estive a tutti gli effetti. Quindi non è possibile per le gomme estive declassare, quindi ridurre il parametro relativo alla velocità. Un'altra teoria sul tema dei pneumatici quattro stagioni, poi chiaramente introdurrò anche il dibattito sull'articolo da mettere davanti al appunto sostantivo pneumatici. Guardate, io neanche voglio introdurlo questo argomento, perché c'è una forma che è più corretta dell'altra, però sono entrambe corrette perché vengono utilizzate nel gergo comune, per cui per cortesia smettetela di mandarmi 5.000 messaggi su questo argomento, perché tanto stamattina chiunque sia ospite di Salvatanaglio lo dice come vuole, perché preferiamo concentrarci sulla sostanza piuttosto che sulla forma di questo tema stamattina, cortesemente, grazie. Giovanni da Ferrara, a questo periodo mi fate essere proprio particolarmente antipatica. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei dice gli pneumatici. Giovanni, mi scusi. Mi sente lei? No, io sono particolarmente contento di aver montato questo pneumatici quattro stagioni, quindi io faccio Venezia, Belluno, Feltre, Ferrara, e non ho sempre le gomme in mano tutti gli anni, tira giù, metti su, metti su, metti giù, anche perché c'è anche un risparmio, diciamo così, economico, di questi tempi non guasta. Infatti, esatto. E io la consiglio, anche perché sono autorizzati a livello europeo e sono di una ditta francese, quindi non è che sia pneumatici di concorrenza, sono cose serie, effettivamente funzionano. Questa è la mia... È la sua teoria di buon senso, Giovanni, e questa è la pratica che ha utilizzato all'interno della sua famiglia. La ringrazio per la sua testimonianza. Enrico Cinotti, vice caposervizio del Salvagente, che è il settimanale dedicato a tutte le tematiche dedicate al mondo del consumerismo, e proprio per il numero di metà aprile avete fatto una prova su strada, ti sei messo tu alla guida di un po' di auto sperimentando pneumatici diversi. Enrico, buongiorno intanto. Buongiorno a te, cara Deborah, massima solidarità con te per quanto riguarda l'aggettivo, perché tu come lo usi? Redazione è un problema. Che sono gli pneumatici o i pneumatici, anche noi lasciamo, come dire, insomma, ampia scelta. Benissimo. Detto questo, cosa avete fatto voi appunto questa prova sul campo per l'utilizzo delle gomme? Ci siamo affidati all'ADAC tedesco, che è l'automobile club tra i più prestigiosi insieme al nostro in Europa, che costantemente mette su strada e quindi testa tanto le gomme estive quanto quelle invernali. E soprattutto va riconosciuta una cosa principalmente: si chiamano gomme estive e pneumatici, diciamo, estivi, ma devono garantire una perfetta aderenza sul bagnato, proprio perché, come dire, insomma, la diversità maggiore nella bella stagione, tra virgolette, che ci auguriamo, insomma, no, sia sempre bella e quindi che non piove, però la diversità maggiore meteorologica è proprio la pioggia. Queste gomme devono, come dire, garantire alla macchina di essere proprio incollata alla strada nei momenti in cui effettivamente, insomma, magari è maggiore il pericolo. Ecco, la questione delle gomme quattro stagioni l'avete affrontata, Enrico? Perché hai sentito, allora, che è quella che più preme i nostri consumatori all'ascolto. Lasciami passare una battuta, li consideriamo un po' le gomme delle larghe intese, le quattro stagioni, proprio perché, come dire, sono un po' invernali e un po' estive, ma in realtà, come dire, non hanno un profilo ben definito. Anche noi, sentivo prima il collega che è in studio, diciamo, la persona propendere proprio per una, come dire, versione piuttosto che per un'altra, anche noi preferiamo, nel caso in cui sia possibile, se vuoi poi parliamo anche di prezzi, come dire, montare gli invernali, diciamo così, con la vicinarsi della stagione invernale, e le estive verso appunto tra marzo e aprile. Andrea, certo. Andrea Marinucci, lei che ne pensa di questa faccenda, dell'utilizzo appunto, che è molto diffuso per questioni economiche tra la famiglia, della gomma appunto definita così quattro stagioni, valida per le quattro stagioni? Ma io non sono d'accordo sulla gomma che è quattro stagioni. Diciamo che ogni gomma dovrebbe avere il suo periodo, quindi è ovvio che nel periodo estivo ci vuole un tipo di gomma e un periodo invernale. Ma allora voglio dire, ma l'industria perché se li ha inventati questi pneumatici qua? Perché così, cioè, anche il consumo della gomma, due cambi, certo, è ovvio che un veicolo ha due cambi, un po' come noi nel vestiario, no? È come se ci mettiamo sempre per tutto l'anno lo stesso vestito, quattro stagioni, lo consumiamo di più. Diciamo che il consumo è minore, no? Perché uno comunque ogni sei mesi, ogni quattro mesi cambia la gomma, quindi è ovvio che c'è una durata maggiore. È ovvio che il veicolo deve avere due cambi. Come un po' adesso anche nel vestiario, non c'è più la primavera e uno già, diciamo, c'è il cambio invernale, il cambio questo estivo. Lo capisco, però magari diamo anche qualche suggerimento di buon senso. Volevo ritornare un attimo a Fabio Bertolotti. Adesso io posso anche capire chi ha un utilizzo molto intenso dell'auto, perché viaggia molto per lavoro, è chiaro che deve viaggiare con un'automobile che sia sempre nelle migliori condizioni, e forse magari per questi profili è bene che si faccia un cambio sempre molto rigoroso e stagionale, no? L'invernale per l'invernale e l'estivo per l'estivo. Ma magari per chi utilizza l'auto solo nel proprio paese, magari ecco, per queste famiglie qua forse il quattro stagioni può andar bene? Possiamo chiudere un occhio? Ma non è questione di chiudere un occhio o tenerne due aperti. Però io mi chiedo perché l'industria li mette sul mercato, se poi chiaramente i diretti interessati, allora, giustamente dicono, siete molto rigidi, molto rigorosi, e dite no, questi non vanno bene, è bene per l'estate che si utilizzino quelli estivi. No, attenzione, nessuno ha detto che non vanno bene in assoluto. tutto, ma si tratta di ottimizzare le prestazioni. E poi, come diceva il collega precedentemente, non è corretto pensare ad un vantaggio economico, perché comunque vada, se uno ha il doppio treno di gomme, se consuma l'uno non consuma l'altro e viceversa. Di conseguenza non è un costo doppio come qualcuno vuole o pensa, non è così. È chiaro che avrà un consumo pareggiato sia dell'uno che dell'altro, quindi dell'estivo e dell'invernale, viaggiando sempre nella massima sicurezza. Io volevo sottolineare l'aspetto anche del quattro stagioni, perché non è un termine che identifica una specifica tipologia di prodotto, cioè a fronte di una indicazione quattro stagioni potrebbe essere un pneumatico con caratteristiche assolutamente invernali, cioè semplicemente una mescola termica, ma è solo il disegno del battistrada che ha tassello pieno, cioè estivo, e quindi ha determinate prestazioni. Altri invece che hanno un pneumatico con una mescola estiva a tutti gli effetti, ma lamellata, cioè tutta tagliuzzata come può essere l'invernale. Vedo l'ora di vedere il mio gommista per parlare di mescola e mellata, Bortolotti, guardi veramente. Lamellata, sì, perché sono le lamelle che intrappolano la neve e che garantiscono quella tenuta su neve. Ma attenzione, se poi la mescola non è termica, la caratteristica prestazionale viene meno. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio. Poi volevo, con Enrico Cinò, sempre andando a curiosare sull'articolo che hanno pubblicato sul Salvagente qualche settimana fa, affrontare di un tema nuovo, di cui mi sono accorta proprio nel suo articolo, del cosiddetto contributo ambientale che praticamente verrebbe applicato sull'acquisto di gomme nuove a partire dal 1 gennaio di quest'anno. Adesso la cifra è piccola, ma siccome piove sempre più sul bagnato, abbiamo scoperto che c'è anche questo piccolo balzellino che viene imposto, che viene fatto pagare dalle aziende che appunto vendono gomme che aderiscono al consorzio Ecopneus. Quindi Enrico, preparati, perché fra un po' mi devi spiegare anche questa. Tra poco. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Infierisci Gianmarco, piove, guarda che già basta piove, che mi giri Madonna dietro piove, e vedo dalla finestra che sta venendo giù di tutto da Milano. Qua siamo stufi proprio, una primavera che non abbiamo neanche visto, e per infierire ulteriormente adesso dobbiamo metterci in testa che dobbiamo fare una piccola revisione dell'auto per farla trovare pronta, bella, fiammante, scattante, funzionante per l'avvento della stagione estiva. Prima di tutto, occhio alle gomme. Avete fatto il passaggio? Siete degli irriducibili delle quattro stagioni? Questa mattina abbiamo scoperto che naturalmente molte famiglie preferiscono non fare questo cambio e appunto utilizzare il modello che teoricamente, come dire, nell'industria non esiste, del quattro stagioni, quelle che vanno bene appunto sia in estate che in inverno. Volevo sentire anche Fabiano da Firenze e poi ritorno ad Enrico Cinotti del Salvagente. Fabiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io dicevo, ho trovato delle gomme che si chiamano gomme ricostruite, insomma, gomme ricostruite. Io mi trovo molto bene a queste gomme qua e costano la metà delle altre. Cosa vuol dire ricostruite, Fabiano? Come sono fatte? Ricostruite sono le gomme che le persone buttano via, che una volta andavano molto poco, però ora stanno ritornando. Praticamente è una gomma vecchia ricostruita su una gomma vecchia, rifanno una gomma nuova. Fabiano, sentiamo un po' Bortolotti cosa ne pensa. Sicuramente sarà balzato sulla sedia, venuta l'orticaria, no? No, mi viene assolutamente l'orticaria, la ricostruzione. C'è un mercato secondario anche di questo tipo. La ricostruzione è un'applicazione plausibile e assolutamente corretta tecnicamente, se fatta a ragion veduta, cioè sulla base anche dell'omologazione. Consiste semplicemente nell'asportazione del battistrada vecchio, quindi viene grattato via il battistrada e viene rivulcanizzato un nuovo battistrada. È un po' una gomma di seconda mano rigenerata, in sostanza. No, seconda mano è non è giusto. No, seconda mano è un'altra cosa, cioè il mercato dell'usato, e qui invece potrebbero esserci altri tipi di dei problemi. Diciamo che la gomma ricostruita è, diciamo, ricostruita da un soggetto preposto che evidentemente fa questo come mestiere, quindi non viene fatta in casa, è fatta da un'industria sempre che ricostruisce, hanno controllato la integrità della carcassa e a questo punto poi hanno rivulcanizzato il battistrada. Se il tutto è fatto a norma è tutto corretto. Com'è affascinante tutta questa terminologia legata alla gomma, rivulcanizzato il battistrada, certo. Bortolo, quante cose impariamo. Allora, non incollato, no. non si mette della colla. Enrico Cinotti, che cos'è questo contributo ecologico invece per chi oggi volesse comprare un bel set di gomme nuove da gennaio, anche questo piccolo contributo da versare? Va detto che il PSU, diciamo, è un pochino, diciamo così, più nel tempo affonda le radici. E noi abbiamo portato il nuovo listino che è in vigore dal primo gennaio del consorzio Ecopneus, che è uno dei principali, diciamo così, consorzi che si occupa proprio di, come dire, insomma, smaltire in maniera ecocompatibile le gomme che poi, insomma, vengono, una volta, diciamo, usurate, vengono destinate, diciamo così, ad essere accantonate. Su ogni gomma, diciamo così, c'è ad esempio, per quanto riguarda i ciclomotori o motocicli, le aziende che aderiscono al consorzio Ecopneus appunto, diciamo così, chiedono 1,25 euro più IVA per quanto riguarda ciclomotori e motocicli, mentre 2,50 euro più IVA per quanto riguarda appunto gli autoveicoli, le gomme che vengono tese sugli autoveicoli. Va detto anche che nel momento in cui, proprio per rendere trasparente che si tratta, diciamo così, di un contributo a fin di bene, nel senso che poi sarà reimpiegato per smaltire in maniera, ripeto, insomma, compatibile con l'ambiente, una volta a fine corsa, diciamo, i pneumatici, in fattura deve essere proprio riportata una dicitura particolare, la leggo, diciamo così, perché per onor di cronaca, contributo ambientale ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152. Benissimo. Se non viene riportato questo, c'è un problema, nel senso che magari, diciamo, il nostro gommista o ci sta provando oppure eventualmente ha adottato un listino un po' troppo alto. Allora, quindi diciamo che se ci viene chiesto di pagare questo contributo in fattura deve essere indicato tutto il termine di legge a cui questo contributo fa riferimento. Grazie mille Enrico, ho ancora un paio di ascoltatori. Enrico Cinotti, sì, lo salutiamo, poi naturalmente ti rinviteremo per altre inchieste interessanti del Salvagente. Io intanto ritorno ai nostri ascoltatori, sentiamo un po' Marco da Padova. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io vi chiamavo perché non è ancora stata sollevata una questione. Sentiamo, solleviamola. Sì, che è l'invecchiamento dei pneumatici, nel senso che se io li compro e li lascio anche tra virgolette sotto al cuscino, dopo un tot di anni sono perfettamente inutili, nel senso che la mescola decade e quindi le prestazioni vanno ad essere svilite, se non annullate, nel senso che diventa quasi pericoloso andarsi in giro. E lo chiedevo perché appunto nel cambio di pneumatici tra invernali ed estive, io ad esempio faccio pochi chilometri, faccio 10.000 chilometri l'anno, quindi mi trovo ad avere delle gomme che superano anche i 5 anni Di età, dice, però non li usa di fatto. Però dopo un tot di anni la prestazione, cioè, decadono e quindi diventano pericolosi. Volevo, insomma, che venisse un po' chiarita questa cosa. Grazie Marco. Bertolotti, ha ragione il nostro ascoltatore? No, non ha ragione, perché è partito da una premessa sbagliata, cioè che in assoluto ci sia un decadimento prestazionale, e questo avviene, ma avviene per come, diciamo, viene stoccato e usato. Lui stava parlando di pneumatici in servizio, quindi pneumatici in uso, fa 10.000 chilometri l'anno e di conseguenza stia pur tranquillo che non c'è nessun decadimento prestazionale dei suoi pneumatici in relazione all'età. Bisogna fare una grande attenzione tra quello che è il prodotto a magazzino e il prodotto in servizio. Il prodotto a magazzino, cioè quello che viene stoccato dalle aziende produttrici di pneumatici, viene stoccato a condizioni climatiche, ambientali e quant'altro, tale per cui viene garantito nel tempo la sua durata. Allora, senza perdita di caratteristica prestazionale. Benissimo. Questo deve essere chiaro. E comunque, concludo dicendo, allora, i pneumatici non sono come il prosciutto, le uova, non hanno una data scadenza. Di scadenza. Quindi però hanno solamente la necessità di essere utilizzati bene. Certo. Andrea Marinucci, magari ancora un paio di indicazioni sul resto della nostra auto, che non è fatta solo di gomme, per esempio con l'arrivo della stagione estiva, dobbiamo far controllare in maniera particolare la batteria piuttosto che il filtro dell'aria, il filtro dell'olio, che dobbiamo fare? Beh, è chiaro che almeno una volta l'anno, almeno due volte l'anno, nel periodo invernale e nel periodo estivo, dobbiamo controllare tutto quello che è necessario al miglior funzionamento del nostro veicolo. Quindi è importante che la batteria venga verificata, perché la batteria è il cuore della vettura. Quindi è chiaro che nel periodo invernale ha delle maggiori sollecitazioni, così come ce l'ha nel periodo estivo. È ovvio che un controllo va senza dubbio effettuato, soprattutto quando ci sono delle grandi percorrenze e chiaramente non sono soltanto le percorrenze cittadine. Il viaggio nel periodo invernale è un viaggio nel periodo estivo, quindi è ovvio una migliore efficienza è necessario. Il controllo, ripeto, la cosa importante anche secondo me sull'utilizzo delle gomme dei quattro stagioni, così come il veicolo, è se il veicolo gira sulla città o gira sulle strade extraurbane. È chiaro che se il veicolo gira sulle strade extraurbane deve essere maggiormente controllato. Per quello che riguarda... Sì. No, stavo solamente già andando oltre con la testa alla domanda successiva. Mi stavo chiedendo, siccome io di chilometri ne faccio abbastanza e la pressione delle gomme, per esempio, la faccio controllare sempre prima della partenza di ogni viaggio. È corretto questo comportamento? Ce ne dobbiamo accorgere da soli quando la gomma un pochino sgonfia, Marinucci, oppure in ogni caso un controllino della pressione, anche se ad occhio non vediamo niente di strano, è bene farlo? Adesso lo so che può sembrare scontata la risposta. Benzina al self-service. È chiaro che un controllo della vettura, dell'olio e della pressione delle gomme è importante almeno una volta che si faccia il pieno della benzina. Anche perché almeno quello è gratuito, se abbiamo soprattutto il nostro benzinaio di fiducia, quei controllini là ce li fa gratuitamente. Ancora un paio di domande, se ce la facciamo. Sì. Non va utilizzato il self-service in quelle circostanze, è ovvio. Ma non è detto, perché io faccio il self-service dal mio benzinaio, poi lo faccio uscire di qua, mi controlli anche la gomma un attimo, sposto la macchina, non è detto che non si possa fare. Allora, sentiamo un po' Fabrizio da Latina. Rapidamente, Fabrizio, grazie. Buongiorno, niente, io volevo portare all'attenzione un fatto che è successo quest'inverno. Allora, io a novembre ho montato i pneumatici invernali nuovi, comprati dal gommista, Poi con le buche che ci stanno in giro, io abito in una città latina che è piena di buche, tutta sfondata, le strade tutte spaccate, tutte. Dopo una settimana che ho montato le gomme nuove, ho preso una buca e ne ho spaccate due, compreso un po' di circhi. No, ma lei sa che lì può rivalersi contro l'amministrazione comunale? Sì, vabbè, però voglio dire, cioè, se parliamo di sicurezza, di queste stradali, lo so. Bella, non basta solo avere, sì, dobbiamo i pneumatici nuovi, invernali. Lo so, Fabrizio, quello dovremmo fare. Allora, Bortolotti, qua dovete fare un'altra campagna, ha capito? Dovete sollevare questo problema presso le città. Ma questo è un vero problema, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, dati della Polizia Stradale di Roma, l'8% dei pneumatici controllati, delle vetture che circolavano a Roma, aveva dei tagli. Sì. Erano visibili sul fianco proprio e sono il risultato di pressione di gonfiaggio scarsa e buche, quindi l'urto contro un ostacolo, una buca, un marciapiede o quant'altro, unitamente alla scarsa pressione. Attenzione, volevo dire, la scarsa pressione e il ripristino della pressione di gonfiaggio va fatta da rivenditori specialisti, quelli che controllano. Non posso farlo dal mio benzinaio. Ma non è che non lo può fare, lo potete fare, ciascuno lo può fare, capisco che sia più pratico, ma il rischio è quello di non avere un gonfiaggio corretto. detto, chi non gonfia le gomme sappia che consuma più carburante, da un 3 fino a un 15%. E con questo rimbrotto alla Rosciani sul finale, grazie a Fabio Bertolotti, ad Andrea Marinucci per essere stati con noi. Naturalmente so che il periodo economicamente è difficile per tutti, però insomma, se viaggiate molto o poco l'auto, cercate di controllarla quanto più possibile. È questione di sicurezza vostra, della vostra famiglia e di tutti noi. A domani. Salva Danaio.